Vado a giornale, la giornata più giornata meno. Vedo che ne va così a forza, sai, la crisi. Che prima arriva la crisi, va, cazzo, mi stanno sul letto, se no, come vado fuori. Ci siamo fermati qua, però. Qui. Delle relazioni, abbiamo visto il gruppo, forse mancava, sì. Comunque adesso visto che lei non c'era, quindi, però non ne faccio forse, no. No, no, lei c'era, sì, sì, sì. Lei non c'era, però sapete cosa facciamo? Dedichiamo. Lei non c'era la parte finale, lei si è attimo per tutto arrivata attraverso. Scusate se cerco un attimino anche di tappare le lacune, tanto noi quindi è una cosa. Lei a che punto è, perché questa parte qua è un po' una parte. Siamo sempre noi. Però se lei si aspettava la professor che si lo chiamo, va bene. No, no, ce l'abbiamo dopo, mi basta avanti. Allora, noi ci risolviamo dal mondo come spesso. È arrivata la guardia con le catene migratorie e le catene di lavoro dopo, ad esempi, per il mercato del lavoro. Sì, sì, e quindi invece nella parte finale siamo arrivati al gruppo, credo. I concetti di base, abbiamo spiegato il concetto di soggetto. Esatto. Sì, sì. E poi ci siamo fermati forse. Sì, al secondo ci siamo fermati. Ok. Allora cioè, al primo non avevamo completato tutto. Facciamo un ripasso, riprendiamo velocemente questo. Cioè, che è una ripetizione in parte per voi tre, ma tanto intanto dovete sistemare, eccetera. Così vediamo questo aspetto che un po' che, diciamo è un attimino centrale per voi. Allora, qual è la storia dell'arte? La storia della situazione di questo corso finora, noi abbiamo visto tutto il testo della De Nicola, okay, questo è anche per l'ordine dello studio, perché tanto poi alla fine, seguendo delle lezioni e altre no, dovrete comunque studiare con attenzione i testi. Allora, l'ordine è questo, De Nicola, noi abbiamo visto, questo è il testo di Chiesi, e praticamente in questa prima parte, adesso finiamo, siamo arrivati al terzo capitolo, quindi De Nicola. Primi tre capitoli di Chiesi nello studio, e adesso io riprendo questa che è la parte finale del terzo capitolo, perché sono gli ingredienti di base dello studio delle reti. Vado un po' veloce perché per loro è una ripetizione, ma intanto voi che non c'eravate potete riprendere un po' il filo della situazione. Fatto questo, quindi presentata questa parte, poi oggi vediamo i due capitoli di questo libro qua, che apriamo e chiudiamo. Qua dovete fare soltanto due capitoli. Ok, così questo è andato ed è incastrato in maniera un po' logica rispetto a secondo me logica. Beh, se voi dovete tutto, come dire, ha trovato delle cose in più per anche per discussioni queste tecniche. No, e poi vediamo quali sono i capitoli da non studiare, però nel programma io ho segnato due capitoli, perché se poi anche, no? Se volete leggere, leggete, ma i primi due capitoli teorico e metodologico sono utili per. E poi domani ripartiamo dal quarto capitolo di Chiesi, che finiamo domani, finiamo la prossima settimana, ok? E ci restano in fondo quei saggi applicativi che abbiamo visto. Quindi anche l'ordine dello studio, mi dica se la pratica è probabilmente è corretta dal punto di vista, la sequenza dello studio è così, se studiate così, non avete problemi a trovare una totale coerenza tra gli appunti e quello che dice. Quindi anche se dovessero mancare dei pezzi mentre studiate, mi scrivete, mi chiamate, insomma, perché vista la numerosità posso anche prevedere un numero verde effettivamente per voi. Allora, perché questa cosa è importante, la ripeto velocemente per chi l'ha già sentita? Perché sono i concetti di base che si devono analizzare per studiare le relazioni sociali. Adesso arriviamo alla parte pratica, abbiamo riflettuto sulla teoria, sugli aspetti metodologici, dobbiamo mettere in fila, cioè in fila le cose che dobbiamo poi studiare. Allora qua Vedete il concetto di soggetto? Questi sono i paragrafi del capitolo, d'accordo? Quindi trovate tutto all'interno del capitolo. Il concetto di soggetto, il concetto di legame, di relazione sociale, di gruppo e sottogruppo e di struttura del reticolo complessivo. Siccome la prossima settimana io voglio cominciare a fare degli esempi applicativi con il mio computer, magari ci mettiamo attorno alla cattedra e mettiamo subito e facciamo già degli esempi appena presentato una misura, voi cominciate a pensare a degli esempi applicativi che vi possono riguardare nelle cose che studiate, possono essere anche collegate all'ambiente di lavoro, ok? Cioè cercare di capire un attimo così, poi vi diamo, come dire, subito un contenuto pratico alla presentazione del concetto, perché questo è un corso di 36 ore. Se fosse un corso da 54 ore con questo programma ci potrebbe essere una parte più, diciamo, di pratica alla fine. Invece dobbiamo cercare, allora io cercherei di sfruttare al meglio, vista una misura e la proviamo subito sul database e poi ci condividiamo e usiamo insieme. Allora, il concetto di soggetto. I soggetti possono essere individuali o collettivi, questo lo sappiamo, d'accordo? L'abbiamo anche detto in precedenza, cioè gli individui oppure i gruppi. Negli esempi che poi vedremo, alcuni studi riguardano gli individui, uno studio riguarda le relazioni tra entità, tra associazioni, diciamo istituzioni, perché noi possiamo studiare, per esempio, la rete delle collaborazioni per la gestione delle risorse idriche tra i comuni, tra i quali il comune nel quale lei svolge incarico di amministratore e della sua zona. Noi ricostruiamo un network di collaborazione, di cooperazione, eccetera, tra i comuni, d'accordo? Che sono dei soggetti collettivi, però non sono dei soggetti individuali, ok? Il secondo, le caratteristiche che devono avere i soggetti per essere studiati in maniera corretta devono essere queste. I soggetti devono essere discreti, cioè devono essere separabili chiaramente l'uno dall'altro. Per le persone è piuttosto semplice, no? Che questo avvenga. Per gli enti non è detto che lo sia, cioè, se noi studiamo le relazioni tra le regioni e i comuni che costituiscono queste regioni all'interno dello stesso network, mettiamo sullo stesso piano entità che non sono perfettamente discrete, perché i comuni faranno parte delle regioni, d'accordo? E quindi questo è un problema. Dobbiamo identificare dei soggetti che siano chiaramente separabili l'uno dall'altro e inoltre non devono essere eterogenei. Possiamo studiare le relazioni tra soggetti individuali o tra soggetti collettivi, non tra soggetti individuali e soggetti collettivi, o perlomeno non attraverso gli utenti, che se non in maniera un po' particolare, ma il mainstream è questo. Devono appartenere allo stesso tipo di fenomeni, devono essere eterogenei. Ora, la terza caratteristica, inizio a parlarne perché alcuni di voi stanno scrivendo nella slide successiva, riguarda le categorie che appartengono. Cioè le loro caratteristiche personali, l'etnia di appartenenza, la lingua che parlano, la religione che praticano. Questi temi, come avrete visto venerdì, sono diventati proprio, sono esattamente i temi di cui stiamo parlando anche noi, nello studio delle reti, delle relazioni, eccetera. Allora, queste categorie sono importanti perché se noi studiamo le relazioni tra individui, ad esempio, e poi ci focalizziamo sulle relazioni che abbiamo trovato, ma che coinvolgono individui che appartengono a etnie diverse, noi attraverso la ricostruzione di queste relazioni abbiamo un indicatore del rapporto tra queste etnie. Si sentono, hanno tra di loro un rapporto forte oppure no? Per esempio, un tema che molti trascurano quando studiano i rapporti tra etnie è il rapporto, per esempio, scuola tra i soggetti che appartengono a etnie diverse. Noi ragioniamo italiani e non italiani, ma i non italiani sono talmente diversi tra di loro, non è che interagiscono perché non sono italiani, c'è il semplice fatto che non sono italiani. Allora, guardando le relazioni tra individui e avendoli però classificati in maniera corretta rispetto alle loro caratteristiche, categorie di appartenenza, possiamo avere delle indicazioni buone sui rapporti tra queste categorie. Le categorie devono essere esaustive, cioè dobbiamo avere tutte le informazioni sulle etnie, per esempio, presenti all'interno di un certo territorio, si devono escludere reciprocamente, se un soggetto fa parte di una categoria non può fare parte pure dell'altra, perché si escludano, è necessario che non siano sovrapposte tra di loro, e poi devono essere individuabili in maniera univoca per l'attribuzione dei soggetti. Ogni soggetto deve cascare dentro una di queste categorie. Ok? Quindi scegliamo il contesto da studiare, scegliamo i soggetti da studiare, e la prima cosa. Poi c'è il legame. I soggetti sono collegati alla loro lavagna di legami, non c'è una tipologia condivisa di legami, e il tema della lezione di oggi è provare a trovare un modo per classificare e costruire una tipologia di questi legami. Una volta che identifichiamo il legame da studiare, possiamo rilevarne una o alcune delle cinque caratteristiche fondamentali. Quindi ecco, per chi non c'era, io ripeto questa parte qui. La prima caratteristica è la più semplice: un legame ci può essere o no, presenza o assenza del legame. Sono legami che non hanno nessun'altra qualità, ci sono o non ci sono. Siamo colleghi di lavoro? Sì, no. Siamo membri della stessa chiesa? Sì, no. Punto. Non ci sono altri legami, non ci sono altre caratteristiche per questi legami. Se scegliamo questa strada, già dobbiamo usare delle misure invece che altre. Ecco, la scelta di alcune caratteristiche invece di altre ci porta poi a usare alcune misure invece che altre misure. La seconda caratteristica è la direzione. Legami amicali, per esempio, hanno una direzione. Io considero amico Tizio, ma Tizio non è detto che faccia lo stesso con me. Ti scelgo per qualche motivo, ma tu non mi scegli. Ok? Sono legami che poi si disegnano in questo modo. E può essere reciproco questo legame o no, non è detto che lo sia. I legami precedenti invece sono per definizione reciproci, perché c'è solo un legame tra due persone, non ha senso prenderli secondo la direzione. La terza caratteristica di base dei legami è il segno. I legami possono essere, potremmo non accontentarci, per esempio, no? Lei, no, suo collega, perché appunto anche lei, avete fatto l'esempio di sistemare dentro, all'interno degli stessi tendoni delle famiglie, dei soggetti invece che altri. Quindi potrebbe non essere sufficiente analizzare la presenza di legami positivi, io scelgo qualcuno, ma pure guardare dei legami negativi. Non solo non scelgo, ma mi sembra antipatico, cioè è un legame che ha una valenza negativa e si esprimono con dei segni. Ok? Più e meno. D'accordo? I grafi che si producono, se sono diretti nel caso dei legami diretti, in questo caso li chiameremo grafi segnati e vedremo qualcosa rispetto alle misure dei grafi segnati. Vi è poi il peso. Possiamo decidere di raccogliere questa informazione sui legami. Quanto pesa un legame? Come si fa a pesare un legame? Misurando la frequenza di attivazione nel corso del tempo. Quante volte ci siamo sentiti nel corso degli ultimi 10 giorni? 4 giorni? 5 giorni? 6 giorni? Si tratta di legami che hanno pesi diversi. Il grafo che si produce è un grafo pesato. Oppure possiamo scegliere di chiedere ai soggetti quanto si sentono vicini dal punto di vista affettivo. Da 1 a 10, quanto ti piacciono queste persone? 1, 5, 7, 10. Quindi avremo dei legami diretti e pesati. Ok? Naturalmente in base al tipo di scala che utilizziamo possiamo elaborare in un modo invece che in un altro queste informazioni. E infine la molteplicità. Studiamo più legami tra soggetti. Studiamo tanti legami contemporaneamente. Quindi tra N1 ed N2 verifichiamo se è presente un legame di colleganza, se sono colleghi, se sono parenti, se sono iscritti alla stessa associazione. Cioè abbiamo più legami, più linee tra due nodi. I grafi che si producono a partire dall'analisi della multiplicità si chiamano grafi multipli. Ok? Quindi, come vedete, questa questo inquadramento serve a renderci un attimino più consapevoli rispetto alle qualità, alle caratteristiche dei legami che possiamo studiare. Naturalmente, da che cosa dipenderanno le caratteristiche dei legami che studiamo? Dipenderanno, a mio modo di vedere, da quello che ci interessa scoprire rispetto alla realtà che abbiamo di fronte. Quindi il tema degli indicatori è un tema fondamentale, ma un indicatore di scelta, di selezione, può essere trasformato praticamente nello studio dei grafi segnati, o di grafi retti, o di grafi pesati, in base alle caratteristiche del legame che vogliamo prendere in considerazione. Quello che dobbiamo sapere è che questa scelta, che nasce da un'esigenza teorica, poi produce degli effetti a livello pratico sulle misure che noi produciamo per studiare la connettività. In questo corso noi impariamo a studiare la funzione sociale, a misurare la connessione, la connettività tra le persone. Quindi se scegliamo una caratteristica invece che altre, potremmo utilizzare poi le misure che sono collegate a quella caratteristica, ma non alle altre, d'accordo? Quindi è una, come dire, una scelta che si fa un po' con sempre poi, col tipo di, rispetto al tipo di misura, di analisi che si vuole produrre. Va bene, professore, si fa una ricerca di dati, una ricerca a largo spettro, per poi da questa finalizzata, cioè ci si pone l'obiettivo prima di fare la ricerca di tre cose, che tre marker che vogliamo avere, e ne teniamo tre, però questi dati potrebbero anche essere utilizzati per altri. Beh sì, cioè possono avere anche l'interpretazione dei dati, una volta che tu c'hai i dati li puoi interpretare, li puoi utilizzare come altre parti, però si parte dalla ricerca cercando quello che io voglio, cioè voglio vedere questa caratteristica, allora parto da questa, e poi vengono utilizzati diversamente i dati. Sta a me poi interpretare in maniera diversa. Beh, l'interpretazione dei dati è collegato ai risultati che vengono fuori. Quindi se un contesto sociale rispetto a una certa grandezza è molto coeso, questo non si può interpretare. Utilizziamo queste tecniche proprio per evitare che l'analisi della com'è il clima relazionale sia collegato alla percezione che uno ha, che è come brancolare in una stanza buia, d'accordo? Invece in genere sì, capita che succeda perché succeda questo, d'accordo? E quindi ci può essere un uso diverso rispetto alla motivazione che ha portato alla raccolta dei dati, ed è un uso che naturalmente deve essere compatibile con la qualità dei dati. Faccio un esempio: se lei studia le reti di collaborazione, di lavoro tra un gruppo di soggetti, poi non può usare quei risultati, potrà usare quei risultati per tutti i tipi di approfondimenti, anche di riflessione, che riguardano la collaborazione tecnica tra soggetti che lavorano assieme, ma non potrà presumere di utilizzare quello che impara da quei dati con delle tecniche standardizzate per commentare il clima di solidarietà, di affettività, eccetera, perché i dati non sono stati costruiti rispetto a questo scopo. Quindi è ammessa un'analisi. L'analisi che lei propone si chiama analisi secondaria, cioè utilizzare i dati per finalità diverse da quelle che ne hanno prodotto l'utilizzo, finalità conoscitive, approfondimenti, però questo non può avvenire, come dire, in violazione delle caratteristiche che hanno portato alla nascita del dato. Ecco, solo questo. Ecco, questo è un punto importante che abbiamo già affrontato abbiamo discusso venerdì, ed è che cos'è la relazione sociale, perché i legami l'abbiamo visto. Ci viene in mente un tipo di stimolo su quale raccogliere le informazioni, con il legame, trovato un elenco nel manuale di tipi di legami diversi, eccetera. Quello che manca è una sistematizzazione dei legami. Che cos'è allora la relazione? La relazione tra due soggetti diventa il fascio, cioè l'insieme, la giusta posizione dei diversi legami che li misurano. Questa è una definizione operativa di relazione, in assenza di una definizione teorica. Che senso ha dire che tra due soggetti la relazione padre e figlio è la somma delle volte in cui si sono visti, se si sono scambiati delle risorse, se hanno condiviso un'esperienza all'interno di qualche associazione o sportiva? Che la relazione per i limiti non è la somma di queste cose, no? Bisogna avere un approccio teorico per capire che cos'è la relazione, poi da questo arriva l'approccio di legame, ed è il lavoro che facciamo. Può essere importante perché voi potreste decidere di studiare la relazione con i gruppi dei quali vi dovete occupare l'organizzazione e di prevedere i legami di sostegno come uno specifico indicatore di una idea multidimensionale di relazione sociale. Allora il sostegno entra dentro l'organizzazione. entra in relazione con le altre caratteristiche relazionali che esistono tra gli individui e scopriamo che alcune caratteristiche facilitano il trasferimento di sostegno e altre no. Proprio perché i legami non esistono l'uno a prescindere dall'altro. Possiamo immaginare che esistano l'uno a prescindere dall'altro. Bene. Ecco, lo scopo che noi abbiamo, e poi veniamo alla concetto di relazione, chiudiamo con la parte iniziale di tesi, è identificare i gruppi e i sottogruppi di appartenenza dei soggetti. Perché questo è importante? Perché noi siamo abituati ad approcciare la conoscenza della realtà partendo dal presupposto che gli individui appartengano a dei gruppi. Allora, se voi studiate l'assistenza dopo un evento catastrofico e dovete organizzare l'aiuto, partite dal presupposto che i soggetti appartengano già a dei gruppi. Gruppi su base etnica, su base religiosa, su base politica. Cioè, in base agli attributi che condividono tra di loro, questi appartengono a un presupposto. L'analisi delle reti ribalta questo presupposto e ci costringe a trovare i gruppi. I gruppi vanno trovati a partire dal modo in cui i soggetti interagiscono tra di loro. Allora, come si fa a trovare un gruppo? Per trovare un gruppo bisogna identificare una caratteristica interattiva. Il gruppo si qualifica per le caratteristiche strutturali che hanno le relazioni, che ha la rete, e non per le caratteristiche dei soggetti. Faccio un esempio molto semplice. Ok? Poniamo che avete un gruppo composto da 6 soggetti. Ok? E sono 6 persone che dobbiamo aiutare. Bene. Naturalmente voi ragionate su numerosità che non sono queste, però questo serve come esempio. Abbiamo un approccio, diciamo così, attributivo, individualista al loro sostegno e gli chiediamo a quale etnia appartengono. Questi devono vivere assieme, si devono aiutare, hanno perduto la casa, dobbiamo organizzare il loro aiuto. È un aiuto che va dai bisogni primari fino ai bisogni ultimi. Allora, questi gruppi appartengono all'etnia A e all'etnia B. L'etnia A la evidenziamo con un eretto, diciamo così, e l'etnia B invece la evidenziamo lasciando vuoto il nodo, senza colorare. Questi tre appartengono all'etnia A, questi altri all'etnia B. Con un approccio di questo tipo noi saremo portati a immaginare che questi tre lavorino assieme meglio di come invece possono lavorare assieme agli altri. La stessa cosa faranno questi tre. Quindi cercheremo magari se la stanza, che se nel locale che stiamo attrezzando ci sono due stanze, mi perdonerete per la grossolanità e la lunghezza dell'esempio, tenderemo a immaginare che se ci sono due cuscine forse è più utile che questi qui appartengano, lavorino assieme, stiano assieme tra di loro, eccetera, perché li incaselliamo dentro questi gruppi, che sono gruppi relativi alle loro caratteristiche. Dopodiché arriva uno di voi, uno degli studenti del corso di governance dell'emergenza, e con lui che ha fatto questo corso, e con un test sociometrico, no? Con una domandina, in 5 secondi raccoglie queste risposte, chiama il capo dell'organizzatore e dice: guarda, che la rete tra questi è così, questi si conoscono, interagiscono, già viene fuori una cosa del genere. E lui dice: allora mia figlia, sapete cosa dice quando sto preparando le lezioni? Passa e dice: papà, perché non la smetti di fare gli aquiloni? questo sembra un aquilone, dico, ma c'hai ragione anche te. Fai qualche alberello. Ogni tanto lo faremo, il grafo ad albero, il grafo ad albero. Allora, secondo voi c'è una funzione di questa rete più coesa rispetto al resto? È chiaramente questa. Ora, questa cosa qua, cioè un gruppo in cui un sottogruppo, cioè una porzione del gruppo, in cui tutti i soggetti non solo sono connessi, cioè sono raggiungibili, qui sono tutti connessi, anche questo è connesso con questo, attraverso le mediazioni, d'accordo? In questa porzione del sottogruppo i soggetti non solo sono connessi, ma sono direttamente connessi, cioè c'è solo un passo che bisogna fare per passare da un modo all'altro, hanno un legame diretto. Questo pezzo di gruppo si chiama click. E la click è un sottogruppo fatto così. La click è un sottogruppo fatto così, ma non fatto così perché lo troviamo nel nostro studio dopo una situazione di emergenza. Esiste così, è un gruppo che ha delle caratteristiche strutturali. Allora noi per raggruppare i soggetti dobbiamo cercare un gruppo fatto in quel modo, ce ne sono tanti modi, ma ne vedremo alcuni, però avrete gli strumenti per vederveli tutti in futuro se volete approfondire, perché qui ci sarebbe da stare ore e ore a parlare di sottogruppi. Questo è, dobbiamo sapere prima come farlo, perché, e dobbiamo vedere se c'è la realtà che stiamo studiando. Se c'è, come in questo caso c'è, noi definiamo i confini di un gruppo, ma non li possiamo definire prima di analizzare le relazioni. Se no qui avremmo preso un cantone, una cantonata clamorosa. Noi sappiamo che una click è fatta così, la dobbiamo cercare. Una volta che la cerchiamo e la troviamo, definiamo i confini, ne misuriamo la coesione interna. La coesione interna della click è massima, poi vedremo, ha un livello di densità pari a 1, la densità pari a 0,1. La click, questa click qui, poi vedremo, si chiama in particolare click 1, ma se parliamo indistintamente di click ci riferiamo a questa, ha sempre densità pari a 1. Ora, se noi calcoliamo la densità complessiva della rete, non è 1, ma di questo pezzo sì. Di questa parte di rete, sì, la densità, perché tutti siamo direttamente connessi tra di loro. Quindi possiamo immaginare che questi quattro probabilmente possano lavorare meglio assieme, si trovano meglio assieme, e che grazie a questo si possa in qualche modo anche favorire la nascita di legami diretti tra questi tre e gli altri tre soggetti. Perché questo, rispetto alla click, è differenziato, rispetto all'intero gruppo, è un broker, ha la capacità di mediare. Se guardiamo la click è uguale agli altri, ma dentro l'intero gruppo questo non solo fa parte della click, ma è anche un punto di contatto col resto dei soggetti all'interno della rete. E quindi dice: guardi, caro organizzatore del servizio, io non farei tre in base alla partenza etnica, metterei questi quattro assieme a fare delle cose, questi due assieme da un'altra parte, chiederei a questo ogni tanto di lavorare assieme, di fargli fare delle cose insieme. Come vedete, ora, di nuovo. Quindi lo tiene dalla parte dei quattro, non dalla parte dei due. Sì. Funzionalmente, più funzionale. Poi si può vedere, cioè, si potrebbe, per esempio, che ho fatto, per vedere una parte iniziale, la fase, i primi giorni in cui questi quattro stanno assieme, ciascuno dall'altra parte, e dopo il primo giorno, per vedere che questo lavori un po' con questi e un po' con gli altri tre, in modo da favorire, no? Quindi, di nuovo, no? E rinnovo le mie scuse per la rozzezza dell'esempio, però capite bene che utilizzare queste tecniche ha un impatto diverso, perché noi definiamo in maniera diversa i concetti, definiamo in maniera diversa il concetto di struttura, che significa che il gruppo è un'altra cosa, cioè il gruppo non è l'appartenenza, non farei maschi e maschi, femmine e femmine, per intenderci, va bene? Avete visto quegli esempi sulle classi della scuola elementare, si vede chiaramente come si aggregano i soggetti rispetto al sesso. Poi quando si va avanti non è che la tendenza ad aggregarsi con i simili diminuisca, cambia forma, cambia dimensione, ma è nelle cose, d'accordo? Quindi io vi chiederei di vedere, di verificare se succede davvero. Quindi il gruppo si trova, se ne definiscono i confini, si misura la coesione interna, si analizza la struttura interna. Ecco, e alla fine ci chiediamo qual è la portata, l'ultimo concetto fondamentale, la struttura del reticolo complessivo. Qual è la portata conoscitiva dello studio delle relazioni sociali? Qui ci sono due versioni, perché abbiamo visto che si può utilizzare queste tecniche per prevedere, io vi ho detto, questi probabilmente possono sviluppare più facilmente dei valori, delle norme condivise, eccetera, no? Quindi sono più facili da organizzare se remano nello stesso verso del servizio. Sono più difficili da organizzare se prendono un'altra direzione, perché non li controllo, d'accordo? Allora, in queste mie parole, al di là del contenuto specifico, c'è una tendenza a spiegare il comportamento individuale a partire dal posto che occupa l'individuo all'interno della rete. Per cui questo soggetto qua si comporterà in maniera diversa da questo, non tanto perché appartengono a, hanno caratteristiche attributive diverse, nella fattispecie appartengono alla stessa tecnologia, ma perché questo si trova in una posizione all'interno della rete e quest'altro no, quest'altro è quasi un soggetto isolato, no? Allora, come possiamo utilizzare il network analysis? Ci sono due modi, due versioni, la versione forte e la versione debole. A voi la scelta, d'accordo? E questi sono strumenti che come dire, prevedono un forte impegno teorico, ma impegno nel senso proprio di impegnarsi, nel senso che quando li usiamo noi spieghiamo la realtà in questo modo, è la struttura che determina l'azione, non il contrario, d'accordo? Dopodiché possiamo avere una visione più deterministica ed è la versione forte, cioè spieghiamo il comportamento sociale degli individui a partire dai modelli di relazione ed è determinismo, è previsione del comportamento degli attori, per cui io questi non li conosco. Questi quattro non li conosco, ma se li fai interagire in quel modo sicuramente svilupperanno quel tipo di tendenza, a prescindere da come sono fatti. Questo è il determinismo. Il determinismo strutturale, la struttura che determina l'azione dei soggetti, oppure, che è quella che io personalmente poi sposo come versione anche nel libro che ho adottato, ed è la versione debole, che potremmo chiamare interazionista strutturale, cioè gli attori sono condizionati da vincoli strutturali, ma contribuiscono a costruire le reti con cui agiscono, cioè sono liberi di agire in una certa maniera dato il condizionamento strutturale. Va bene? Allora spero, avendo ripreso la parte finale della lezione dello scorso venerdì, di aver rispolverato quei concetti e conclusa la lezione di questa parte che non avevamo fatto. E anche di avere un po' consentito a chi non ha ascoltato questa parte di mettere un po' in fila gli argomenti. Se poi ci sono dei dubbi, naturalmente ve lo dico. Dica. Allora, se la scelta è una delle due variabili, il risultato? No, appunto, il risultato, le tecniche sono uguali, il risultato è l'interpretazione di te. Indipendentemente dalle tecniche, d'accordo? Indipendentemente dalle tecniche. E in un caso lei immagina che sia sostanzialmente la modificazione strutturale a cambiare, noi vi faccio già un esempio rispetto all'intervento, perché questo ci interessa, no? Quindi devo cambiare la struttura. Dall'altra parte invece qui si ritiene che la struttura abbia una capacità forte di incidere, di condizionare l'agire dei singoli, ma che anche da lavorare sulle motivazioni dei singoli, sul modo in cui questi scelgono poi di replicare delle azioni, delle relazioni, oppure di romperle, di crearne altre, e allora è un approccio debole. Se io avessi un approccio forte, una versione forte a questa situazione, non riterrei che questo soggetto possa essere capace di modificare le relazioni tra gli altri. Perché un broker in genere, e lo sapete il vostro collega, ha sempre la posizione in questo caso, facendo parte della stessa classe, del coordinatore. Il coordinatore è un modo per fare riferimento alla visione del broker, no? E un broker non lavora mai per creare ponti diretti, collegamenti diretti tra gli altri, perché se nel momento in cui lo crea, lui non è più un broker. È come dire una staticità della schemina? Sì, cioè c'è diciamo, una posizione che all'interno della rete che lo spinge ad agire in modo da riprodurre sempre quel tipo di struttura. D'accordo? Perché un broker beneficia di questa mediazione, ne trae vantaggio, d'accordo? Questo si vede non solo in ambito economico, ma io mi sono preso la briga di prendere alcune misure di network in sociologia economica, di usarle per spiegare il comportamento scolastico, i risultati scolastici, e funziona. I broker comunque traggono beneficio da questa loro posizione, va bene? Allora, non è possibile, invece gli attori, pur essendo condizionati dai vincoli, contribuiscono a costruire le regioni che agiscono, possono decidere di rompere un legame, possono decidere di crearne un altro, di creare un legame che non avevano in precedenza, d'accordo? E quindi voglio dire, è chiaro che poi ciascuno, a partire dalle stesse misure, con le stesse tecniche, spiegherà i risultati in maniera diversa. Ma detto questi approcci, non si può andare là, no? Perché comunque c'è un forte condizionamento strutturale. Volevo chiedere, c'è un po' di dubbio riguardo alla categoria di appartenenza all'inizio, quando abbiamo preso... Cioè, diciamo che questa schema, sì, questa schema è un dato di fatto che noi lo troviamo così, e poi analizziamo le categorie di appartenenza e capiamo che sono così, perché cioè, pensando per esempio all'etnia, che hanno fatto tre soggetti che sono di un'etnia, che tutti e tre partecipano a quel dato lì, però forse visto che il gruppo è stato creato in questo modo, significa che ci sono certi altri legami, cioè diciamo che sono non più forti ma anche più strutturali dell'etnia. Quindi secondo me. Certo, questo è senz'altro. Cioè, se poi il problema è che non si può sapere a priori. Voi avete 10 persone sedute di fronte. Quando io ho visto la prima volta, no? Non avevo idea di. Cioè, la prima volta c'era diciamo che eravamo Diretto. Quando però il corso è diventato fortemente famoso e siete arrivati voi, no? Che l'avete reso famoso, diciamo così, no? Io vi ho osservati, ma non avevo idea di quale fosse e se ci fossero mai state relazioni tra di voi, d'accordo? Ed è la situazione in cui si trova l'operatore quando ha di fronte i residenti in un condominio, una palazzina che è crollata e in qualche modo li deve organizzare. Non sai che se esistono dei legami di affetto, di odio, di simpatia, di antipatia, eccetera. Quindi quando si pone il problema di dover organizzare la sua attività di assistenza, in che modo si dà dei parametri? Guardando le caratteristiche attributive degli individui. Qui si dice no, questo non è sufficiente, bisogna capire se esistono dei legami tra di loro. Quindi questa rete, nell'esempio che ho fatto prima, è una rete che noi abbiamo trovato già, d'accordo, facendogli qualche semplice domanda. Ok, non so se... Bene. Ed è questo che vorrei fare, la prossima settimana, quando faremo la parte sulle matrici, creiamo una matrice e proviamo subito a vedere che cosa succede disegnando le reti, d'accordo? Naturalmente ci inventiamo i dati, se poi qualcuno di voi avesse dei dati già di interesse possiamo guardare quelli. Bene, a questo punto dobbiamo risolvere due problemi fondamentali ed è questo lo scopo delle parole che dovrò usare nei prossimi minuti. I due problemi sono risolvere il problema da affrontare è quello della differenza tra legame e relazione. Noi dobbiamo avere un approccio multidimensionale allo studio dei legami tra i soggetti, perché questi non sono in relazione solo in maniera, come dire, parcellizzata per un legame alla volta. Ci può essere anche solo un legame, ma è un caso minimo. E comunque dobbiamo essere capaci di capire di che tipo di legame si tratta e in che relazione stanno altri contenuti possibili dei legami con quel legame lì. D'accordo? Quando si dice che i legami in modo particolare espressivi possono favorire il superamento di situazioni di difficoltà, di bisogno, di malessere, si sta qualificando il legame. Allora questa qualificazione dei legami entra dentro un concetto multidimensionale di relazione oppure no? O ci accontentiamo di prendere, ricorda, no, l'esempio dei legami espressivi nei gruppi non agonistici e dell'incidenza sulla percezione che può avere l'allenatore? Quello è un tipo, è un indicatore, è chiaro che sta dentro una, diciamo, composizione multidimensionale del concetto di relazione. Guardate che è uno sforzo teorico che si fa all'inizio. Si costruisce lo strumento, i dati entrano dentro delle caselle in maniera semplice, come se fossero tutti di un solo legame. Qui però è uno sforzo che vale la pena di fare. Okay? Il secondo problema consiste nella differenza che noi ci troviamo di fronte quando dobbiamo studiare un gruppo, le relazioni di un gruppo chiuso dentro un ambito, con i confini chiaramente identificati, o invece di un gruppo che non è fatto così. Soggetti che non possono essere identificati con un ambito di affiliazione, di appartenenza. E quindi quali tecniche usare? Le misure sono le stesse, ma cambia l'impostazione. Noi ci potremmo trovare in entrambe queste situazioni nell'analisi delle emergenze. Gruppi affiliativi chiari, chiusi, oppure gruppi che dobbiamo organizzare di soggetti che hanno già le loro reti, ma non possono essere resi in considerazione considerazione soltanto per le relazioni che hanno con i soggetti con i quali condividono l'esposizione al nostro intervento di sostegno. D'accordo? Non so se avete un'idea. Sono due tipi diversi di network analysis, ma tanto adesso li vediamo. Quindi sostanzialmente i primi due capitoli, vedete, del testo, sociologia razionale e social network analysis. Allora, per affrontare il primo problema, dobbiamo capire che relazione c'è tra il concetto di legame e quello di relazione. L'idea che ha questo testo è di provare a risolvere questo problema utilizzando la teoria relazionale della società. Dico un attimo, della quale abbiamo parlato, abbiamo parlato di schema oggi e poi non abbiamo ancora affrontato, abbiamo parlato di cui non è testo della lingua, è un sociologo contemporaneo, quindi stiamo parlando, che ha proposto una visione relazionale della società. Ogni fenomeno è sociale nella misura in cui è relazionale, noi dobbiamo definire i fenomeni come relazioni sociali. Okay? Quindi l'idea è di utilizzare questo approccio conoscitivo assieme alla social network analysis per risolvere questo problema. Okay? È il primo, diciamo, obiettivo che ci poniamo. Ora, il libro, quindi i punti che noi affrontiamo, sono sostanzialmente i seguenti. Il primo è l'introduzione al tema della compatibilità tra questi due paradigmi della ricerca sociale, cioè la teoria razionale donata da una parte, che ci serve perché mette al centro il concetto di relazione, ma non prevede l'utilizzo della social network analysis, se non da parte di qualche suo allievo in modo particolare, per esempio me, che sono suo allievo e che però ho sempre puntato, guardo per usare la network analysis, allora abbiamo iniziato a utilizzare, ma la teoria razionale per sé non prevede la network analysis, d'accordo? Come lui aveva detto durante la presentazione di un altro mio libro, cioè, tronca al pallino di poter integrare con altri approcci, ma io non ne sento esattamente la necessità, almeno se sono messi a ridere, no? Però è questo, quindi questo diciamo è l'aspetto relazionale di questo testo, è questo qui. Però bisogna capire se sono compatibili, d'accordo? Il secondo è la presentazione degli strumenti metodologici di questi due paradigmi che voi avete già, conoscete già sotto la network analysis, e la proposta di una soluzione comune alla questione metodologica. Il quarto punto è in grigio perché voi non dovrete preparare per l'esame e sono i due studi empirici che trovate all'interno del testo. Questi due studi sono uno fatto rispetto allo studio dei contesti chiusi, i due tipi di scenari che vi dicevo prima, la full network analysis, lo studio delle classi nella scuola, delle scuole superiori. Il secondo invece è fatto utilizzando la network analysis su soggetti che non sono più racchiudibili all'interno di un gruppo. Era il secondo scenario che dicevo prima ed è un esempio di personal network analysis o ego network analysis, poi più adesso presentiamo bene queste due modalità. Questi due studi dimostrano che se si usano assieme, dimostrano secondo me ovviamente, se si usano assieme la teoria razionale della società e la network analysis, sia nella versione full che nella versione personal della network analysis, si trovano degli ottimi risultati su temi che rispetto ai quali prima non si era avuto modo di trovare questi risultati. Il studio di personal network analysis riguarda lo studio del familismo, che è un tema tipicamente italiano, nel confronto tra mezzogiorno e il resto del paese. Ok? E comunque trovate, se volete approfondire, naturalmente nulla vostro che a che lo leggiamo. Ecco, vediamo però in fila questi tre punti. Questo è il mio scopo adesso. Il primo, introduzione al tema della compatibilità tra i due paradigmi della ricerca sociale. Qui vi ricordo che cosa vuol dire paradigma perché l'abbiamo già visto in precedenza, quindi lo dico soprattutto perché non c'era, non aveva avuto modo di ascoltarlo. Il paradigma è una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta dai cultori di una determinata disciplina. Ora, se nelle scienze naturali sostanzialmente c'è una prospettiva, un paradigma alla volta che è prevalente e poi viene sostituito nel corso del tempo dagli altri, nelle scienze sociali assistiamo alla presenza contemporaneamente di più paradigmi. Questo relazionale è un paradigma della ricerca sociale. Se cambiate sociologo, vi spiega che magari la realtà non si, così non si capisce, d'accordo? Non si studia in questa maniera, d'accordo? Nella mia attività di ricerca ho sempre cercato di, anche perché, diciamo, non è che mi piace perdere tempo con gli approcci alle funzioni, se il mio scopo è quello di capire qualcosa, di cercare di capire in che misura queste tecniche consentono di vedere cose che non si vedono se non vengono vedute, cose che sono rilevanti e che non si vedono se non sono utilizzate. Quindi, ci sono tanti paradigmi, quindi abbiamo due paradigmi relazionali, quello di Donati, la teoria relazionale della società da una parte e il paradigma, diciamo così, strutturale della versione debole, interazionista strutturale, come vedremo, dall'altra, dobbiamo capire se sono compatibili, ok? Allora abbiamo nel paradigma una prospettiva teorica che ci fa scegliere, che indirizza l'analisi empirica nella scelta dei fenomeni importanti da studiare, nelle reazioni di ipotesi per la spiegazione dei fenomeni osservati e nella creazione delle tecniche di ricerca più adeguate. Pensate all'esempio che ho fatto prima, sui 6 soggetti da organizzare dentro un mini appartamento. Utilizzare un approccio individualista che mette al centro l'individuo con le sue caratteristiche per capire in che modo lo si può aiutare da una parte, e invece utilizzare un approccio relazionale dall'altra, che si preoccupa innanzitutto di capire come sta in relazione con questi soggetti per aiutarlo, significa utilizzare due paradigmi diversi per raggiungere uno scopo simile, cioè sostenere al meglio il soggetto. Se si dimostra che l'uno approccio funziona meglio dell'altro, perché dopo un periodo di assistenza il soggetto tendenzialmente sta meglio, si sente meglio, super, vuol dire che l'approccio conoscitivo funziona, ci dà delle informazioni più utili rispetto a quello che dobbiamo fare. Allora, qui dobbiamo capire come questi paradigmi rispondono ad alcuni problemi. E qui torniamo su questo tema, mettendo in fila, tema che è presentato da Corbetta, sono le domande che si fanno ai paradigmi. Probabilmente abbiamo già accennato qualcosa rispetto a questo tema, ma qui lo riprendiamo perché ci serve l'approfondimento di ambito relazionale. E Corbetta lo fa pensando alla differenza tra individualismo e olismo, tra micro e macro sociologia, diciamo così. Noi prendiamo queste domande, che sono prodotte a partire dalla definizione di paradigma, e le usiamo per capire come possiamo produrre una risposta comune a queste domande, una risposta relazionale, a partire dal mix, dall'utilizzo combinato della teoria relazionale della società di Donati e della social network analysis da una parte e della social network analysis dall'altra. Le domande sono, alle quali deve rispondere un paradigma della ricerca sociale. La realtà sociale esiste? Esiste una realtà che sia propriamente sociale? La realtà sociale è conoscibile? Come può essere conosciuta la realtà sociale, se è conoscibile? Queste questioni sono la questione dell'essenza, la questione ontologica, di ciò che esiste anche al di là di ciò che esiste, punto. Non perché è percepito in qualche modo, qual è l'essenza delle cose che abbiamo di fronte. La questione della conoscenza o questione epistemologica, la realtà sociale è conoscibile. La terza questione è la questione del metodo, la questione metodologica. L'ordine tra queste questioni naturalmente non è casuale. Se la realtà è fatta di relazioni che esistono oggettivamente, a prescindere dal fatto che qualcuno se le rappresenta, vuol dire che avremo un certo modo di ritenerle conoscibili o meno, utilizzando delle tecniche invece che altre. Questo è chiaro, la sequenzialità è nel DNA del rapporto tra queste domande, d'accordo? Abbiamo già discusso in parte queste domande proprio per vedere le differenze tra micro e macro sociologia. Adesso dobbiamo capire come le due paradigmi razionali possono rispondere in maniera combinata a queste tre domande. Perché questo serve? Ve lo ripeto, non dimentichiamo lo scopo che ci siamo, previsti democraticamente, io ho scelto e io ho imposto a tutti voi, è quello di usare la network analysis per studiare le relazioni e non solo il legame. D'accordo? Allora, dato le relazionali donati, la riprendiamo, ne abbiamo parlato già quando abbiamo parlato di corti, torniamo su alcuni capisaldi di questa teoria, in modo particolare dal punto di vista metodologico, qual è lo strumento che utilizza la relazionale della società? Prodotto da sociologia funzionalista e reinterpretato in chiave relazionale. Lo chiedo ad una persona a caso, a lei. Se lo chiedo a lei, quale può essere la risposta? Lo schema? Lo schema agile, d'accordo? Quello che vi piace, e siccome ho capito che vi piace, ci torno in maniera particolare su questo, non si preoccupi perché lo spieghiamo. Allora, la teoria relazionale della società definisce lessicalmente e operativamente, non solo operativamente, ma anche lessicalmente, i fenomeni sociali attraverso il concetto di relazione. La realtà sociale è realtà relazionale, per essenza. Vi ricordo qualche classico di questo tipo di approccio, cioè riconoscere nelle relazioni il punto di partenza per l'identificazione della realtà sociale. Ce ne sono più di uno, io direi, ecco, se in ambito formale, come sociologia formale, Gheorghe Zimmer. Ok? La relazione è una categoria del pensiero. Non è direttamente osservabile, che sta nei fatti in re, dice Donati, e conferisce loro una qualità eminentemente sociale. Dunque, la sociologia non deve identificare i fenomeni negli individui, né tantomeno nelle macrostrutture, poiché in quanto fatti reali e non riconducibili alle rappresentazioni soggettive, i fatti sociali sono conosciuti esclusivamente attraverso l'analisi delle relazioni. Quindi non è sufficiente studiare i condizionamenti della, diciamo, macrostruttura in cui i soggetti si trovano, né partire dalle loro caratteristiche, ma starne, naturalmente sarebbe, per chi fosse interessato a approfondire, trovate riferimento anche nel testo, teoria relazionale della società, è il libro fondamentale della parte. Quindi non possiamo naturalmente vedere in dettaglio, diamo soltanto qualche stimolo generale, e attenzione a quello che evidenzio qua, questo particolare è importante per la questione dell'essenza, sono fatti reali, non stanno nella testa di chi ne vive le relazioni, esistono al di là della percezione che gli individui ne hanno, ok? Questo vuol dire che andiamo verso una risposta realista alla questione dell'essenza, ma tanto poi adesso le mettiamo in fila le risposte a quelle tre domande. La qualità dei fenomeni sta nel loro definirsi per e attraverso relazioni. L'insieme delle relazioni si configura come una struttura di rete che connette i soggetti, sia individuali che collettivi, generando tra questi delle interdipendenze. Uno dei limiti, per esempio, che Donati proprio in teoria relazionale trova rispetto alla network, vuole che chiuda io? No, da qui io. Mi disturbo se chiudo, perché sono un po' di farò io. No, in effetti. Non c'è tempo, perché non c'è tempo. Se non c'è tempo. Si sono aperte anche le altre qui, Quindi se dovesse essere. Cioè, con questo? Sì. È aperto il primo perché c'era un po' di evidenza. Uno dei limiti di questo tipo di approccio è riconoscere la network analysis, è proprio quello di focalizzarsi eccessivamente sugli aspetti morfologico-strutturali, trascurando quelli collegati alla cultura, alla dimensione culturale, non degli individui, ma delle relazioni sociali. L'oggetto di studio è sempre la relazione sociale. Ecco, questo per quanto riguarda l'impostazione generale. devo aggiungere nulla, l'abbiamo visto. Riporto soltanto questa frase generale: la struttura sociale condiziona l'agire dei singoli individui e la combinazione delle azioni individuali contribuisce a modificare l'assetto della struttura sociale. Una struttura fatta di legami, in questo caso, è una struttura fatta di relazioni, nel caso della teoria relazionale della società. Allora, come si può provare a organizzare in maniera congiunta il lavoro tra questi due approcci? A mio modo di vedere, questi due approcci sociologici, se usati assieme, producono queste risposte alle tre questioni che abbiamo visto prima. Ok? E dopo questa slide, se volete, ci possiamo fermare per qualche minuto per tirare il fiato. Ok? Questione ontologica, che cos'è la questione ontologica? La questione dell'essenza. Che cos'è la realtà sociale? L'approccio è quello del realismo critico relazionale. La realtà sociale è reale, sta fuori rispetto agli individui, non coincide con la rappresentazione che gli individui se ne danno. La disoccupazione non esiste perché noi percepiamo qualcosa che è la mancanza di lavoro, è un fenomeno che esiste a prescindere dalla percezione che gli individui se ne danno, e via discorrendo. Perché è critico? Perché mette in discussione il rapporto tra chi conosce e chi è conosciuto. La conoscenza non è mai perfetta, è sempre probabilistica. Questa è una caratteristica delle scienze sociali. Il realismo del primo positivismo in sociologia è il realismo che oggi è chiamato ingenuo, proprio perché c'era la pretesa di conoscere esattamente i fatti sociali, la realtà per com'era. Invece questo non è possibile. Ed è relazionale perché questa realtà è fatta di relazioni sociali. Esiste cioè una realtà sociale esterna all'individuo, le cui caratteristiche sono indipendenti dalla sua percezione e dal modo in cui egli se la rappresenta. Tale realtà è però solo imperfettamente conoscibile. Critico realismo, primo pezzo. Secondo, critico è imperfettamente conoscibile attraverso la formulazione di leggi che hanno sempre un carattere probabilistico. Cosa vuol dire un carattere probabilistico? Che abbiamo detto sui grandi numeri, determinabile sui grandi numeri. Sì, direi che tendenze sui grandi fenomeni. Io direi che non perfetta. Ecco, cioè vale fin tanto che non è falsificata. Ok? Qui bisogna dire che l'epistemologia popperiana ha lasciato un grande segno nelle scienze sociali, anche al di fuori delle scienze sociali, ma direi in modo specifico per quello che ci riguarda nelle scienze sociali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi conosciamo, noi possiamo conoscere la realtà indirettamente. Proprio quello a cui pensava lei quando mi parlava adesso dei grandi numeri, no? La strategia attraverso la quale noi identifichiamo una relazione significativa statisticamente tra due fenomeni consiste nel misurare il livello di probabilità dell'assenza di quella relazione. Cioè, se noi vogliamo capire se la relazione tra sesso e reddito, e sapete che c'è questa relazione, no? Si guadagnano più i maschi più le femmine. Per capire statisticamente se c'è questa relazione, noi dobbiamo formulare un'ipotesi che questa relazione non ci sia. Funziona così, l'identificazione di relazioni statistiche. Noi formuliamo l'ipotesi che non ci sia questa relazione, e tanto meno probabile sarà questa ipotesi, tanto più probabile sarà l'ipotesi inversa, cioè che ci sia. Che noi però assumiamo, l'ipotesi che noi assumiamo, solo indirettamente. Cioè non verifichiamo direttamente l'ipotesi che ci interessa, ma falsifichiamo l'ipotesi nulla. Ok? Cioè l'ipotesi che non ci sia una relazione. La conoscenza statistica funziona così, Non è possibile verificare direttamente il fenomeno. Bisogna, fin tanto che la relazione sopravvive ai processi di falsificazione, allora resta. Se non sopravvive, vuol dire che quindi le leggi hanno sempre una portata probabilistica in questo senso e possono sempre essere modificate nel corso del tempo, cioè non troverete mai la legge della gravitazione universale, rimane uguale a se stessa nel corso dei millenni, d'accordo? Nella realtà sociale non è così. Diciamo che da questo punto di vista è abbastanza complessa e fare un mestiere del sociologo non è probabilmente la cosa più gratificante dal punto di vista della chiusura delle ricerche. Chiusa una ricerca, prima lei faceva l'esempio dell'analisi secondaria, chiusa una ricerca oggi potrà sempre venire fuori qualcuno tra 15 anni che quella ricerca è sbagliata dall'inizio alla fine e magari ha pure ragione, trovando delle caratteristiche che non sono state prese adeguatamente in considerazione, delle falle nelle impostazioni metodologiche. La ricerca procede così e quindi in questo c'è proprio l'identificazione di una realtà che comunque c'è, anche se non riesco a conoscerla bene e la conosco sempre in maniera perfettibile, e il critico qualifica proprio questa difficoltà nel conoscerla. Poi la questione epistemologica, come si conosce la realtà e il realismo comprendente. La risposta comune, il processo conoscitivo prende le mosse da una realtà esterna allo studioso e che questi conosce attraverso le impressioni che i dati trasmettono ai suoi sensi. Una volta ricevute tali impressioni, il soggetto conoscente astrae da questi dati degli intelligibili universali grazie alla facoltà naturale dell'intelletto attivo. E qui in modo particolare trovate un approfondimento su questo tema di carattere strettamente epistemologico nell'opera che trovate citata lì, di Donati del 83, che è Introduzione alla sociologia relazionale. Poi nel 91 uscirà Teoria relazionale della società. E la questione metodologica, allora, se si può dimostrare che questi due paradigmi rispondono alla stessa maniera, cioè possono fornire un'unica risposta alla questione ontologica e alla questione epistemologica, come si risolverà la faccenda metodologica? A noi interessa questo, perché vi ricordo che vogliamo capire come si può rendere multidimensionale il concetto di relazione sociale, ok? Quindi il nostro scopo è quello di imparare a studiare le relazioni, quindi ci serve rispondere alla questione metodologica. Avete qualche domanda? Chiedo io a voi, allora se è tutto chiaro finora, se abbiamo perso qualche pezzetto per strada. Beh, io sì, ho un punto relativo. La relazione è una categoria del pensiero, non direttamente osservabile, ma sta nei fatti, ecco. Dunque, non direttamente osservabile. La relazione, essendo ciò che fonda la realtà sociale, qui è molto filosofico il discorso di Donati, si presenta sempre, ha sempre una manifestazione empirica, ma ha una dimensione che non è perfettamente conoscibile, perché precede la costruzione stessa della conoscenza. Dunque la relazione sociale è, secondo Donati, solo semantizzabile. Noi possiamo identificare le semantiche, vi ricordate abbiamo fatto il refero, il religo, eccetera. Si possono identificare le semantiche, ma non può essere mai definita completamente, proprio perché è la materia prima che noi utilizziamo, quindi la possiamo usare ma non la possiamo definire, insomma è un po' complicato, però non so se ho chiarito, ecco, va bene? Bene, allora ci fermiamo 5 minuti, va bene?